La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, nel pomeriggio di questo giorno che è un giorno di festa, di celebrazione civile nazionale, perché è la trasmissione ovviamente del 25 aprile, il 25 aprile è la giornata con cui ricordiamo la liberazione d'Italia dal nazifascismo eccetera eccetera. Allora, io ero interrogato su un modo, diciamo, non agiografico, retorico e soprattutto ripetitivo, per tornare però su un tema che è centrale, deve essere centrale all'interno di tutti, cioè capire i prezzi che si pagano per la libertà, per le idee, poi diverse libertà, perché per carità la mia idea di libertà fortemente liberale, liberista, individualista, non è sicuramente l'idea di libertà che hanno. Io sono per una prevalenza del diritto naturale sul diritto positivo, molti altri sono convinti che il diritto positivo sia invece l'estrema frontiera rispetto al diritto naturale di libertà e proprietà, eccetera eccetera. Però naturalmente bisogna essere pronti a capire che la libertà comporta dei prezzi. Questa giornata ricorda chi li ha pagati anche nel nostro paese, una guerra civile aspra e dura, però la risposta che mi sono dato è no, bisogna in questo giorno parlare di chi testimonia i prezzi durissimi che vengono versati nel mondo d'oggi per conquistarsi la propria libertà di un proprio territorio, di un proprio ordinamento, di un... E allora mi sono detto, è il giorno giusto per parlare di un libro che a me personalmente ha molto colpito, non solo me lo sono sciroppato in fretta e furia, ma non mi aspettavo assolutamente un libro così e oltretutto non conoscevo l'autore. Allora io voglio invitare tutti voi che siete in ascolto a leggere questo libro, il titolo è Guerra all'ISIS. Diario dal fronte curdo, è il Mulino l'editore, è un libro di 200 paginette che costa 16 euro, ma secondo me sono ben spesi. Perché sono ben spesi? Perché l'autore è un personaggio singolare, non è un giornalista, quindi questo naturalmente depone a favore del modo in cui scrive. È motivato da una passione che adesso ci spiega, perché è nostro ospite e ha accettato di essere con noi in questo 25 aprile per parlare di questa testimonianza, ed è una persona che, facendo tutt'altro nella vita, pur avendo una grande passione per la storia che è il suo mestiere, a un certo punto decide di prendersi 3 settimane e di andare sul campo, cioè di andare nella parte a cavallo. Adesso ce lo spiegherà meglio lui, visto che il grande paese dei curdi è in realtà figlio dei compromessi delle frontiere, di accordi alla fine della prima guerra mondiale, e quindi nasce a cavallo però dei paesi come la Turchia, la Siria e l'Iraq. Però lui decide di prendersi 3 settimane per andare a capire direttamente sul campo cosa sta succedendo, quanto abbiamo davvero capito dai resoconti giornalistici che abbiamo, chi sono le forze in campo, chi davvero combattono e se combattono, e che cosa invece non si vede dei sostegni di cui godono, ecco, magari alcuni indichiarabili. Allora, questa testimonianza è una testimonianza secondo me bellissima. Io voglio ringraziare l'autore di essere con noi e nel presentarvelo vi dico che l'autore, che si chiama Gastone Breccia, anzi professor Gastone Breccia, visto che insegna all'Università di Pavia, però quello che insegna è singolare e dall'altra parte meraviglioso, perché arricchisce molto questo libro, perché insegna storia bizzarra all'Università di Pavia, quindi non è un professionista delle relazioni internazionali, un esperto di geostrategia, cioè, no, insegna storia bizantina. Quindi fin dall'inizio del libro voi troverete che quando ricostruisce nella sua testa in realtà che cosa sa lui per primo dei curdi di quei territori, emergono classicamente ricordi che sono collegati alla lunghissima storia dell'Impero d'Oriente e al modo in cui l'Impero d'Oriente, appunto bizantino, si trovò ad affrontare dal VI-VII secolo la pressione islamica ai suoi confini orientali, e soprattutto il fatto che i curdi c'erano già, perché i curdi sono documentati fin dai tempi della Grecia classica. Allora, grazie a Gastone Breccia per aver accettato il nostro invito e grazie per questo bellissimo libro. Grazie a voi di avermi invitato. Ma perché? Ma come le è venuta in mente questa storia? Beh, mi è venuto in mente perché da alcuni anni io mi occupo di storia della guerriglia, di tecnica della guerriglia e della controguerriglia. Ho già scritto un libro proprio su questo tema e mi sono chiesto ma perché non andarla a vedere sul campo, come si fa la guerriglia e la controguerriglia. E specialmente mi sembrava interessante il caso del Kurdistan, perché i curdi sono noti per essere un popolo con grandi tradizioni di guerriglia, di pratica della guerriglia, e adesso si stanno trovando a confrontarsi contro un nemico che a sua volta conduce una guerra di tipo irregolare, non una guerra convenzionale. Quindi si sono costretti a cambiare la loro mentalità, il loro modo di combattere, la struttura delle loro forze armate. Questo mi sembrava appunto un fenomeno interessante in divenire, da vedere coi propri occhi mentre accade. Io ammetto però che è difficile immaginare che dei giornalisti, che poi ci sono valenti colleghi, corrispondenti di guerra, che vanno a fare testimonianze libri di questo genere, però ecco, diciamo, non è abituale imbattersi in descrizioni dei curdi tratte da citazioni dell'Anabasi di Senofonte, come invece fa lei, perché ovviamente fa questo di mestiere nella vita. Detto questo, però, posso dire innanzitutto, io dirò le quattro cose che mi sono piaciute di più del libro, nella mia sono un lettore qualunque, però innanzitutto, per far invogliare i nostri ascoltatori a leggerlo, a me piace molto il modo che lei ha scelto. Lei aveva un problema, non parla la lingua, doveva scegliere un traduttore guida e si è affidato a un traduttore guida che però le viene proposto, anzi lei se l'è andato a cercare, da una parte in causa che è una parte sul cui giudizio è diviso l'Occidente, ma è diviso il mondo curdo, perché il suo traduttore praticamente viene dal PKK. Spieghi un secondo che cos'è e poi la seconda ragione ha a che vedere invece col fatto che è la descrizione più accurata che io ho trovato fino a questo momento delle diverse fazioni. Però innanzitutto ci spiega perché il PKK, cioè Öcalan, cioè i marxisti, quelli che i turchi bombardano e così via. Allora, c'è un motivo di ordine molto pratico che farà sorridere qualche lettore, qualche ascoltatore, ma che è legato veramente agli scarsi fondi di cui disponevo. Questo è stato un viaggio, una missione che mi sono autofinanziato nelle mie vacanze, e un interprete normale, per un normale giornalista inviato di guerra in queste zone abbastanza rischiose, ha un costo abbastanza elevato. Rivolgendomi all'organizzazione del PKK, all'ufficio italiano del PKK, diciamo per semplicità, ho trovato un certo sostegno, che loro convinti che io potessi svolgere un lavoro di ricerca che poi poteva tornare utile, non dico come propaganda, ma insomma per far conoscere la loro situazione, per far conoscere anche il loro impegno militare appunto a fianco di altre forze contro l'ISIS, mi hanno aiutato procurandomi un interprete che per quasi un mese è stato la mia ombra in sostanza, e che mi ha veramente chiesto una cifra, veramente un prezzo politico, come si diceva una volta, e questo era l'unico modo per me per affrontare una missione del genere dal punto di vista proprio economico. Poi l'altro motivo, un po' più serio, che si è rivelato veramente una soluzione sul campo, è stata che io sapevo di poter arrivare ai Peshmerga, cioè ai combattenti che dipendono dal governo di Erbil, grazie ai miei contatti con il nostro esercito, poi lo vedremo meglio magari, e invece non sapevo ai guerriglieri che dipendono dal PKK, non avevo contatti. Grazie al mio interprete sono riuscito quindi ad arrivare ed è questo secondo me il vero punto di forza per chi davvero vuole approfondire e magari non è dotato di informazioni così sistematiche sulla complessa geografia in realtà politica del mondo curdo, perché Erbil, quindi stiamo parlando della parte settentrionale irachena e di una regione autonoma curda, in realtà è un territorio amministrato da una tribù, una fazione che divide più che unire i curdi che combattono e che fa affari con i turchi, così? Esatto, io devo dire la situazione politica curda sapevo che era complessa, ma l'ho trovata ancora più complessa di quello che mi immaginavo. Erbil è la capitale del Kurdistan Regional Government, cioè del governo regionale curdo, che di fatto ormai è uno stato autonomo, se sì, non del tutto indipendente. È ricchissimo di risorse anche minerarie. Ricchissimo, esatto, ricchissimo di risorse, soprattutto petrolifere. Petrolio. E che è appoggiato economicamente da tutto l'Occidente e anche dalla Turchia. Questa è una cosa che mi era sfuggita un po' prima di partire. Sono in affari stretti con Erdogan e con il governo di Ankara. Questo chiaramente li mette in una situazione di oggettivo conflitto con la maggioranza dei curdi che vivono nella Turchia sudorientale e che sono invece schiacciati sotto il tallone di ferro di Erdogan. Vediamo, una situazione molto complessa effettivamente. E che, diciamo, sono anche sospettati di non darsi poi così troppo esasperatamente da fare contro ISIS. I turchi sono più che sospettati di non darsi troppo da fare. No, ma gli stessi Barzani che stanno a Erbil, curdi. Ecco, questo, diciamo che più che non darsi da fare, i curdi iracheni del KRG hanno ormai liberato il loro territorio e non sono assolutamente interessati al grande Kurdistan, cioè esatto, ma perché la loro situazione è anche comprensibile, la loro situazione in questo momento dal punto di vista economico, sociale, politico è relativamente buona, hanno finanziamenti occidentali, sono coperti dal nostro ombrello aereo, diciamo. Lei descrive un Erbil, è un'area, insomma, territoriale in cui ci sono tangibili segni di benessere in forte crescita molto rapida dal punto di vista dell'edilizia, delle cose, è così? Sì, è così, anche se con un po' di cautela, perché ci sono sicuramente indizi di sviluppo edilizio rapido, costruzione di strade, di centri commerciali, ma mi parlavano già di un calo, no? Cioè c'è stato un grosso entusiasmo negli ultimi anni, adesso con il calo dei prezzi del greggio, con anche questa crisi che si prolunga oltre quanto forse pensavano all'inizio, il ruolo della Turchia che diventa più problematico, stanno un po', ecco, diminuendo gli investimenti, stanno anche loro un po' cercando di trovare un equilibrio, ecco, nel loro sviluppo. Non è la situazione così rose e fiori come sembrerebbe vedendo i cantieri aperti, eccetera. Certo che in confronto a altre zone che ho visitato del Medio Oriente o del Terzo Mondo in generale, Erbil è una città in espansione, tranquilla, dove si vive in sicurezza e così via. Cerchiamo di spiegare un po' ai nostri ascoltatori invece nella geografia politica, la rappresentanza dei curdi, chi sono i curdi democratici, quelli che malgrado poi abbiano avuto vittime anche in devastanti attentati in territorio turco, finiscono per essere rappresentati come la vera minaccia per la Turchia più del PKK, che è considerato un'organizzazione terroristica a tutti gli effetti. Ecco, nel Kurdistan turco, cioè nella zona del sud-est della Turchia, ci sono due forze politiche curde, adesso protagoniste del confronto con il governo di Ankara. Uno è il PKK, che mantiene un forte seguito e aveva scelto la linea della tregua, poi dall'estate scorsa questa tregua è stata rotta e di nuovo siamo nella guerra civile, nella guerriglia. L'altra forza, appunto, che lei citava è quella che aveva vinto le elezioni di giugno e poi non ha confermato del tutto la sua forza invece nelle elezioni di novembre, e questo era il partito che in teoria avrebbe dovuto confrontarsi con Erdogan dal punto di vista democratico per cercare di arrivare a una soluzione del problema curdo in Turchia. Il problema è che però ha iniziato a rappresentare agli occhi di Erdogan e al suo regime la vera minaccia, che il regime non avesse il potere assoluto per poi cambiare la costituzione, ricandidarsi, prendere tutto in mano, e di qui poi appunto le rielezioni con le modalità con cui sono avvenute in Turchia, certo. Gli attentati, alcuni dei quali sembrano sospetti e così via, e quindi la fotografia che lei ha avuto un po' sul campo lì della prospettiva dei curdi democratici, in questo caso stiamo parlando per gli sviluppi in corso in Turchia, qual è? Che sono in fortissima difficoltà? Sì, sono in fortissima difficoltà, perché chiaramente quando il conflitto si inasprisce, il PKK di nuovo da molti curdi è visto come l'unico partito che ha il coraggio, con tutti i sacrifici che impone alla sua stessa popolazione, però ha il coraggio di confrontarsi con un potere che è di nuovo visto come oppressivo, come una controparte con cui dialogare, ma come un nemico. Cioè Ankara e Erdogan sono di nuovo visti come dei nemici, quindi il PKK ne trae un come vantaggio quando il discorso politico si interrompe, no? Il discorso Come si vede, cari ascoltatori, un problema complicato, però adesso abbiamo un minuto di informazioni stradali, poi torniamo con due punti di fondo, perché i peshmerga, uomini e donne, perché ci sono reparti combattenti di uomini e di donne, in realtà chi sono e cosa sembrano sul campo, e poi la questione centrale che riguarda noi come italiani. I militari nostri lì, il potenziamento in arrivo intorno alla diga di Mosul, trovate nel libro, il nostro autore ha dei contatti, ha degli amici, quindi spiega nel libro anche dove siamo e cosa stiamo facendo, tra un minuto. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18.30. Solo su Radio 24. Questo non credo. Ascoltaci anche in digital. La versione di Oscar. Ed eccoci tornati in questo pomeriggio, cari ascoltatori, del 25 aprile. E la mia idea è stata, dedichiamolo a qualcosa che ci faccia capire meglio e apprezzare quali sono i prezzi che si pagano per la libertà. Siamo al 25 aprile e quindi, traendo spunto da un libro che veramente a me ha colpito molto, mi è molto piaciuto, che si intitola Guerra all'ISIS, diario dal fronte curdo, editore Il Mulino, sono 200 pagine che si leggono però molto agevolmente perché sono scritte in maniera mirabile, e l'autore è uno storico di professione, anche se la sua specializzazione non è esattamente questa, perché è uno storico di storia bizantina, Gastone Breccia, insegna all'Università di Pavia, che si è preso un po' di settimane a proprie spese nel 2015 e ha deciso di andare lì per capire e poi documentare con questo meraviglioso racconto che nasce da appunti tutti presi con lapis a mano in queste tre settimane, come la situazione nel Kurdistan e quindi a cavallo tra Turchia, Siria e Iraq, e per farci capire meglio la complessa geografia politica e militare locale. Abbiamo visto che bisogna distinguere il PKK dai democratici curdi in Turchia, dalla regione settentrionale dell'Iraq curdo, praticamente del tutto autonoma rispetto alla parte centrale e meridionale del paese, e a questo punto però la domanda è: ma i peshmerga, quelli che hanno fatto il più dello scontro sul fronte curdo nei confronti dell'ISIS, i reparti maschili e femminili, in realtà a chi fanno davvero riferimento e perché l'Occidente è proprio a loro che ha riservato i minori aiuti militari? Allora, intanto bisogna distinguere i peshmerga dai guerriglieri dell'HPG, cioè dai guerriglieri del PKK. I peshmerga sono soltanto i guerriglieri, chiamiamoli così, curdi dei due partiti del Kurdistan iracheno, del PUK e del PDK, e del Ministero dei Peshmerga, che è l'organo governativo che li coordina. E questi li stiamo aiutando, in effetti. Noi italiani li sta aiutando, li stanno aiutando gli Stati Uniti, cioè l'Occidente li sta aiutando, li sta armando, li sta addestrando. Poi ci sono i guerriglieri del braccio armato del PKK, che sono impegnati sia in Iraq sia in Siria con altre sigle, ma in sostanza sono gli stessi, che invece non ricevono ufficialmente alcun aiuto dall'Occidente perché sono considerati degli affiliati a un'organizzazione terroristica. Quindi sono da distinguere molto molto bene, altrimenti veramente non si capisce neanche sul campo che cosa succede. Ora, i peshmerga nel Kurdistan iracheno, li ho visti addestrare i nostri paracadutisti, sono coraggiosi, hanno una grossa tradizione di combattenti, dai nonni, dai bisnonni, combattono da secoli, ma sono un po' dei dilettanti, non dico allo sbaraglio, ma dei dilettanti della guerra, che hanno un addestramento spesso approssimativo. In effetti questi reparti di peshmerga in alcuni casi nel 2014 hanno ceduto di fronte all'offensiva dell'ISIS. Al contrario, cosa che non mi aspettavo, i ragazzi del PKK, che io credevo fossero così molto motivati ideologicamente ma poi militarmente un po' scarsi, sono dei professionisti della guerra. Non mi sarei aspettato, ma lo posso testimoniare, sono molto ben addestrati, molto esperti nelle tattiche di guerriglia più avanzate, e dove operano loro hanno ottenuto sul campo dei successi notevoli. Ma le armi che lei descrive, eccetera, come se le procurano quelli del PKK? Questa è una domanda che va oltre l'orizzonte della guerra contro l'ISIS, perché il PKK è sul campo ormai da decenni contro i turchi e con operazioni di guerriglia, quindi in vari territori, sia in Siria, sia in Iraq, sia in Turchia, sia in Iran addirittura. Il problema degli approvvigionamenti di armi è complesso, nel senso che è contrabbando, nel senso che arrivano da chi ritiene di dover comunque sostenere la lotta dei curdi per destabilizzare la Turchia, quindi nemici della Turchia ce ne sono. Sono canali ufficiali di rifornimento di armi, mentre i Peshmerga sì, loro ricevono ormai carichi di armi anche dall'Italia in maniera del tutto scoperta. Il problema però è che considerare quelli del PKK come li considera la Turchia, cioè dei terroristi, è un obbligo per l'Occidente o invece una soluzione equilibrata dei problemi dell'intera area? Perché qui si tratta di una soluzione possibile per immaginare quel territorio risolto il problema militare dell'ISIS. Non dovremmo avere una strategia un pochino più aperta nei loro confronti? Ma io ne sono convinto, anche perché se la stanno meritando sul campo un atteggiamento più aperto nei loro confronti. Però loro loro hanno un'idea di Kurdistan a cavallo delle tre frontiere, questo è il problema. Non è del tutto esatto, non è del nel tutto senso che ce l'avevano questa idea sicuramente, ma negli ultimi contatti tra Öcalan in carcere e Erdogan intercorsi tra 2012 e 2014, quindi subito, anzi 2015, subito prima dell'interruzione della tregua, ormai la posizione del PKK era per un'autonomia del Kurdistan turco all'interno dei confini turchi, cioè non rivendicavano più un grande Kurdistan, un stato sovrano che incorporasse le regioni di quattro stati diversi. Come c'è l'autonomia in Iraq, come si sta effettivamente costituendo un'autonomia kurda in Siria, nel Rojava, così si pensava si potesse arrivare a un'autonomia del Kurdistan turco. Io temo che con Erdogan sia del tutto impossibile, perché Erdogan è alle prese con una stretta autoritaria per ricordare all'Europa, all'Occidente e alla Russia, che non è solo la Russia la potenza sul campo con cui trattare, però naturalmente sono d'accordissimo. Allora, il problema però è un altro per l'Italia. Lei è stato lì in contatto e descrive nel suo libro cosa fanno i militari italiani nostri con la parte di guerriglieri che abbiamo distinto da quella che non stiamo aiutando. Il rafforzamento di cui si parla da mesi della presenza italiana di Galmosul e così via da quelle parti comporta se rischi quali? Allora, io non credo che comporterà grossi rischi, perché sono stato esattamente nelle zone della diga di Mosul, dove si schiereranno i nostri uomini, e il fronte è assolutamente consolidato, c'è un terrapieno protetto da una trincea anticarro, protetto da casamatte, protetto in top cover, come si dice, no? In protezione verticale dagli aerei della coalizione, quindi non c'è nessuna possibilità, parlo proprio dal punto di vista militare in senso stretto, che l'ISIS riesca a superare questa frontiera fortificata. I nostri uomini si schiereranno alle spalle di questa frontiera per proteggere, diciamo così, per garantire la sicurezza del cantiere. Ora, dico, non c'è nessuna possibilità che l'ISIS superi questo confine con un'offensiva militare su vasta scala. È chiaro che il singolo gruppetto, ecco, attentati eccetera sono possibili. Questo è possibile, e quindi ci vuole un tipo di difesa che minimizzi una possibilità che pur esiste. Esatto. Quando lei è andato era in corso l'inizio di della spallata che poi i giornali italiani e internazionali sintetizzano con la percentuale di territorio persa dall'ISIS, ma sul campo che impressione aveva? Soprattutto lei descrive a lungo come le diverse parti dei curdi combattenti descrivono quelli del Daesh. Dunque, sul campo l'impressione che si aveva nel settembre, io purtroppo sono stato in Kurdistan e in Siria subito prima che cominciasse la grande controffensiva di Damasco aiutata dai russi, che ha cambiato un po', no, la situazione sul terreno, era di una guerra sospesa. Anche dove si combatteva, Sinjar si combatteva, ma si combatteva una guerra di posizione che non aveva in quel momento, non si percepiva la possibilità di un'evoluzione in quel momento. Infatti quello che ha cambiato è stato l'intervento russo. Sì, è che è avvenuto poco dopo. Io l'ultimo giorno ero con una troupe russa della televisione russa e molto simpatici, molto in inglese. Per fortuna mi hanno spiegato, guarda che siamo qui in questo momento già in 6 troupe diverse in giro per la Siria. Perché qualcosa deve avvenire. Sì, perché ormai siamo sicuri che qualcosa capiterà a breve. Infatti 2 settimane dopo è cominciata l'offensiva russa. E bisogna dire che l'offensiva russa, io sono un critico dell'azione di Putin, però Putin ha dato una lezione all'intero Occidente mettendo gli stivali, soprattutto gli aerei, sul campo e ha cambiato le coordinate del problema. Su queste coordinate ovviamente bisogna aspettare chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, la sua strategia. L'Europa, facciamo finta di credere che ne abbia una, non mi pare. Vedremo. Io però devo dirvi, cari ascoltatori, che nel ringraziare ancora una volta il professor Gastone Breccia per il suo libro Guerra all'ISIS, dialogo del fronte curdo, ecco, quelli ci credono davvero ancora al fatto che devono pagare un prezzo per un'idea di libertà di un proprio paese. E devo dire, a me le diverse parti del mondo curdo mi sono sempre state molto molto molto molto a cuore. Grazie al professor Gastone Breccia, buon 25 aprile a tutti.